esaurirli. Io solo una cosa ho fatto e mi sono andato via. Non mi ridere, come sento questi sono contrari a ogni forma. Sono i classici sovversivi. No, ma questi non è che sono cattivi. Sono purtroppo delle persone che non sono state mai frustrati da qualcuno. Altrimenti, se qualcuno li avesse ben percorsi, cioè tranquillo che avrebbero, sarebbe stato nelle sue. E quindi non avevo ragione sul trattamento, se voglio dire, ahimè, purtroppo qualche volta mi è capitato un gruppo drastico e uso la forza, sinceramente. E quando non uso la forza è stata determinante. No, dov'è? Senza scherzo? Non dico senza problemi. Prendo per lì e dico, allora, io devo fare questa cosa qua, cosa faccio? No, devo dire così oppure cosa? No, non faccio tranquillamente. Ma allora, scusa, per non mi faccio, perché non lo so mai fare, che sono un mese lottando con te. Ti devo far vedere che mi devo far vedere per dire. No, ma qui non è questione che si opposto il capo con lui, assolutamente, come socialista mi sto tranquillo, non ha detto niente, c'è la legge. Ma il problema non è quello. Il problema di cui non è quello, tu sai benissimo che queste sono case grandi, sono abbastanza ampie, problemi di spazio non ne ho, non è quello, non è fatto, non è quello lì, cioè non è che sono papaglie, il problema è un altro, il problema è l'ignoranza di queste persone qua. E l'unico modo per vincerla qualche volta è farlo in una sala di 20, siccome questo era un secondino, no? Era. Però non sapeva che io lo facevo cadere sotto, visto. Ma non è che te lo dica parola, io faccio fatti, perché poi quando una persona inizia a rompermi i coglioni, come dico io, no? Allora l'unica soluzione qual è? È quella di dare una definitiva del tipo, allora, se tu non ti lavori ci sono 15 giorni di tempo, dopo 15 giorni ti inizia la guerra, che ne so, tipo, ti metto una bomba nella tua vigna, non è che la metto in casa, è una sua vigna, no? E ti dico, ma perché oppure te ne zappa la vigna con una zappa? Ma appunto bisogna impedirli, ma in tono scherzoso, perché naturalmente queste cose non le si fanno neanche a pensarci, per carità, però molte volte ci sono delle persone che dicendo di queste cose hanno paura, ma è bene farle, mi spiace perché purtroppo questo si fa visto, guarda che c'è una linea bene, io te la posso fare in aria, no, è bene che questi però capiscano che non è tutto loro quello che luce, devono stare anche per cui loro, perché se mai nessuno a questi non facesse niente, nel senso che non mi parli in un certo modo, questi continuano così con la loro prepotenza. La prepotenza va combattuta anche. Sì, è drastico parlare molte volte di questa situazione, però è importante, purtroppo bisogna fare queste cose qua. C'è qualcuno che vuole entrare? Senti qualcuno? Ho sentito un guasto, ma ci sono problemi, siamo entrare, siamo al dialogo. Poi non c'è da nessuno. Ma poco ho sentito un leggero movimento della smetta. Hai visto, casomai non sentito. Ma guarda, detto, non è questione che uno minaccia o non minaccia, io non sono il tipo che sono subito ai ferri corti, per carità, però se uno me ne viene e mi dice, io 40 anni te la tronco, io l'unica cosa che gli rispondo, io ti tronco le ossa, ma te le tronco per bene, perché poi sono andato a denunciarlo, capito, mi sono avvicinato qui in caserma, non ti viene mai un discorso, dice loro, no, secondo me te guarda, ti ho detto, non mi pare modo, dice la rompa le ossa. detto guardi che se io vado glielo rompo davvero, ma glielo rompo in quello se ne dico, guarda, ho detto che anche se siete carabinieri non ho detto che perché avete fatto scuola di taekwondo o kickboxing che mi può dare uno schiaffo in bocca, guardi, ho detto che il professor Vincere qua gliela metto sul banco, carissimo maresciallo, lì si è acquettato. Ho detto perché metto, gli sono parecchi, però quello più diretto, ho detto che io quando lo vedo a terra, ho detto poi gli giro la sopra il collo e gli porto la lentiera, scelga lui, che cosa devo fare? Mi guarda e mi fa, dice, ma non sarà vero, no, non si sta scassando, dice guardi, se non c'è sangue lo pesti quanto vuole. Ho detto certo che lo devo vedere la luce e vedo il buio, fatto un ragionamento di merda, ma ti parlo i tempi. Basta, poi l'ho avvisato il tipo, ho detto guarda, non mi sono insegnato di stare qui a perdere tempo, fatti da parte e basta, se no il metodo ce li ho. Ho detto guarda che io so benissimo dove toccarti, ho detto tu sei appassionato della campagna, bene, la tua figlia ce lo fai. Così gli ho detto, cosa fai tu, trocchi l'antenna? Benissimo, prima vai alla tua vigna e te la butto giù. E ho detto chiaro, ho detto come te lo sto dicendo, ho detto, ma te la butto giù, ho detto tutta, quante sono, 500 piante, una a una. Poi ritorno a casa, ho detto chiudo una sussa, di quelle potenti però come dico io, che non ti potrai muovere, anzi se ti salvi, è proprio perché, non lo so, sei corazzato d'acciaio o di piombo, te mi ricordo. Una cosa del genere, diversamente ho detto non ti far vedere, ma che ragionamenti sono, uno te ne esce e ti tronco l'antenna. No, ma siamo non fanno male. Tutto lì, ma questo problema ce l'avevo anche quando era così mia madre, che il vicino lì stava lì a rompere le palle, ma non è che mi prende le onde dell'antenna. Le ho detto lì, le prende, tu vai, te le pago quelle che ti ruba. Fesserie, stupidaggine. Quali sono classi complessate oggi? Ma non ne ho problemi così. Non ho problemi così, che te voglio mandare tutti a fanculo, faccio sempre quello che ho voluto, continua a farlo, capisci? Tutto lì. Continua a farlo perché poi non disturbo proprio nessuno, ma niente, segnale TV fruttissimo, interferenze TV, grazie a Dio non ce ne sono mai state, ma ha avuto problemi, chi ha problemi prende il sistema ricevitore suo, perché questa è enorme. Chi non se lo vuole sistemare, lo prende, lo butta nella spazzatura e se ne compra un altro, già costano poco adesso. Anzi, l'altra volta ce n'era uno che mi stava disturbando perché è nel terra, spuri, armoniche, compagnia bella, ed era un disturbo continuo, in effetti poi l'ho trovato con un ricevitore che ho messo sulle cuffie, ho seguito il segnale, ho trovato chi era, io l'ho fatto togliere immediatamente. Tutto lì, alla volta la verità è un catto. Io ripeto vivere se qualcuno mi dice sta disturbando, prima di tutto controllo l'apparato, poi se c'è qualche problema prendo provvedimenti. Ma finché l'apparato esce bene, non disturba e tu hai un apparecchio che è fuori norma, parlando tu. Anche perché poi controllo cavi, centraline, capito? Non segnale qui Vittore alle stelle, quindi non disturbi nulla. Sì, ma la colpa, io non lo voglio potete andare con noi e contro gli altri, però ci sono delle TV, delle televisioni, che non sono vecchissime, e la radio disturba la verità, ma questa gente che usa i televisori vecchi di 20 anni fa, se le cambia, che devo fare? Non è, a un certo momento, i televisori, questi problemi non li hanno, lo sono fermato a massa, questi problemi li hanno, i televisori vecchi, ma se uno ha un televisore 20 anni fa, 25 anni fa, tutto è brutto, ma come fare, giusto, ancora, anche perché non si vede bene, tutto questo mezzo, sono dei segni di graffiato sui televisori, quindi già costano quelle cose, costano pochissimo, se lo so sentissimo, non li posso vedere, e non ho questi problemi qua, io non voglio prendere per carità questo, a dover comprare un televisore nuovo, ma tanto in ogni caso non si vede bene, sono consumati ormai, devono sostituirli. Ecco, allora che cosa aspetta sostituirlo? Io ti disturbo perché tu hai un televisore e queste radio qua disturbano, questo tu vuoi, ma non esiste, cambia il mito sul televisore e prendi te lo modello. Ma guarda, se non buttano lo stesso, io continuo a trasmettere ugualmente, non frega nulla, capito? Per più chiamo che io e lo facciamo controllare, pure mettono nulla multa. Allora lì è così, perché se tu sei in regola, giustamente devi avere sempre una concessione e tutto. però non è quello, io ho constatato per la maggior parte delle volte che anche molti privati che in qualche zona c'erano gli baracchini dove si sono lamentati, erano gli amplificatori più facili, carichi d'acqua, arrugginiti, problemi anche a destra. Basta, voi lì, perché si chiude lì? Poi vabbè, lasciamo perdere tutti quanti i curvi che si improvvisano nella radice trasmittente, che stanno lì a fare puttanate. Quello va bene, i pazzi ci sono sempre stati, però a prescindere da questo, quando un radice trasmittente funziona bene, dotato di un'antenna che ha 5 watt in banda CB, ma cosa preti, ma cosa disturba? Ma chi disturba? Sono tutte stronzate. Ma 5 watt lo disturbo, sto dicendo di tutto con 3 watt e mezzo. Guarda, adesso mi vado a misurarlo, sono 3 e 6, questo che esiste, 3 watt e mezzo. Ma in 4 watt e mezzo, in un circondario di che cosa ne so, proprio per esagerare, tra Sassari, Usulo, Sorso, che cosa ne so, Trattabona, quando vai in questo secondario, cioè, poi ci sono zone di preparazione che naturalmente vai, ma quando tu ti senti in questo raggio, va benissimo. Beh, si fa anche, io ad esempio esco dal Cicchiuso e ti sento, e comunque io sto pompando, non è che sto scendendo con qualche wattino così, tutto per avere un segnale più fermo e tutto. Poi sempre la solita storia, vedi tu, i convenienti ci sono dappertutto. Vabbè, ti mollo, dai, ci sentiamo, vedi tu, attentissimo. Buon tutto, alla prossima. Ah, domani pomeriggio ci faccio un salto, andiamo lì, che voglio verificare, ok? Intanto voglio sono scondino e poi ci sono radio, cioè squilla, poi ci sono radio, ci sono d'accordo, a volte io sai, potrei anche, ma dovrei essere libero, domani sera non dovrei avere nessun problema, per ciò che riguarda questa cosa, eventualmente, va bene, allora ci vediamo domani, eh? Sono molto sotto a tutti, eccetera, eccetera, capo. Ciao, ci sentiamo, ciao.